che ti serve, dai rospi alle bugie, magari può servire ad altri esperti qui in zona, zona di mangioni, zona di pasticci lenti, covati lungo un fiume, un mare c'è da godere ed ho aspettato. Al prezzo di costo a belle idee e puoi vendergli le tue e puoi vendere le tue. Tu hai solo i pensieri belli, via via un lurido schifoso ratto, un esserino, un